Buonasera, buona domenica e ben ritrovati sul Stormon Rock. C'ho sempre quegli attimi di tensione prima delle dirette che ho non qui in presenza, quelle dice oddio partirà non partirà, e all'ultimissimo, quando avevo appena detto ai ragazzi, ho detto ragazzi purtroppo mi sa che dobbiamo passare su WhatsApp perché su Instagram la diretta non mi sta apparendo per la doppia visuale, e invece all'ultimissimo fortunatamente è partita. Quindi bando alle ciance, come avevo già detto domenica scorsa o comunque in settimana, avevo avvisato chi avremmo avuto qui in intervista. Ritornano anche per la seconda volta sulla Digital Fujiko, perché se non mi ricordo male erano qui ospiti, mi sa sempre in collegamento su un altro programma qui della Digital Fujiko. Oggi sono qui con me con le Stormon Rock, è una band che è sempre in giro e fanno benissimo, come dicevamo prima, per tenersi giovani, tirano fuori sempre tantissima musica, e quindi sono qui con me Enrico ed Elisa dei Los Fastidios. Ciao ragazzi, buonasera, come state? A tutti, ciao carissimo, eccoci qua. Siamo in viaggio. Siamo sempre on the road. In questo momento stiamo trasmettendo, siamo qui in diretta da Norimberga, è una tappa che abbiamo fatto sulla strada da Nitra, dove abbiamo suonato ieri sera in Slovacchia, bellissimo concerto, direzione Inghilterra, dove suoneremo giovedì, e quindi ci siamo fermati a Norimberga questa sera. Ci sta, perché birra buonissima, situazione bellissima, adesso anche il tempo fuori ottimo, direi piacevole, 21 gradi esterni. Che eravamo a 0 gradi più giorni fa in Polonia con la neve. Con tanto di neve. Quindi, perfetto. Poi collegati con te, collegati su Let's Talk More Rock, ancora meglio. Quindi, vi ringrazio. Non poteva esserci domenica migliore di questa. troppo gentile, ti ringrazio. E in più aggiungo che la mia squadra del cuore, la Virtus Verona, appena vinto 2-1 contro la capolista, caspita. Ecco, guarda, si va a chiudere ancora meglio, quindi tutto molto bello per chiudere questa settimana, questo weekend. Come dicevo, Los Fastidios sono qui con me per parlare un po' per il 13° album, se non ho contato male, quindi se ho sbagliato qualcosa ditemelo subito. 13 album in studio, e speriamo che porti bene questo numero, tredicesimo, esatto, tanta roba. Esatto, perché infatti ho dato un conteggio da quello dal 1991, meno male che siete in giro con musica e quant'altro, stai da vedere che cosa mi possa essere mancato, però in realtà ho fatto in bene. In realtà è in giro dal 1991. È vero, per precisione è in giro Enrico, poi dopo Elisa ti si aggiunta dopo. È l'unico sopravvissuto del nostro studio. Sono l'unico vero vagabondo di questa band che dal 91 gira senza sorte in giro per il mondo. Devo dire che nel frattempo ho trovato altri compagni e compagne di viaggio che veramente meritano un grandissimo rispetto, un grandissimo applauso da parte di tutti e di tutti. Veramente. Stiamo facendo delle grandi cose. No, soprattutto in questo ultimo periodo, veramente tante, tantissime soddisfazioni. Quello ci credo. Come dicevo, è 13° album intitolato Love Steady, ma prima un attimo, non mi ricordo se l'ultima volta che ci siamo sentiti avevo fatto questa domanda introduttiva, perché forse no, perché c'era il discorso che eravate in giro, effettivamente dovevate suonare dopo poco. Esatto, quindi ho detto vabbè, non sto a chiedere questa domanda introduttiva per avere un responso anche da parte vostra. Sicuramente sapete che l'anno scorso i NoFX si sono sciolti. E quindi volevo sapere in breve da voi un po' cosa sono per voi i NoFX. I NoFX, allora, per quanto mi riguarda, rappresentano una delle band fondamentali della scena punk rock. Poi magari non è prettamente il mio genere preferito quello che fanno i NoFX, però c'hanno dei prezzi come Bob e The Brew che, caspita, hanno significato tanto. Quello che è veramente la mia, diciamo, il mio mondo musicale. Okay. Sono una grandissima band, sono una grande band, cosa possiamo dire? Una band che ha fatto di tutto di più, ha girato il mondo. e posso solo che spendere belle parole. Sì. Io sono cresciuta con i NoFX negli anni 2000, per me è stata la band che mi ha, una delle band che mi ha formata musicalmente, ecco. E invece io devo dire che magari io ovviamente sono cresciuto con magari altre band, però i NoFX mi hanno fatto capire come certi generi musicali, come soprattutto magari questo genere musicale oi, che per qualcuno è visto un po' maluccio, invece originalmente è bene meraviglioso, sia apprezzato anche da certe band come NoFX, perché hanno sparato fuori due pezzi, secondo me, oi, che sono tra i più belli della storia della musica oi. Certo, no, va bene, mi fa piacere. Cosa ne pensi a riguardo di questo mio commento? No, giustissimo, perché come ti dicevo la volta scorsa non ve l'ho chiesto perché era un contesto un po' più frenetico, quindi dovevamo un attimo andare effettivamente al sodo. Invece stavolta, avendo l'ora completa e un po' più di tranquillità, ho detto ve lo chiedo. Però giustamente, sapendo che magari per te Enrico non era proprio la band di riferimento rispetto a quello che fai con i Lost Fastidios, però ho detto era giusto sapere da parte mia, mi faceva piacere sapere cosa ne pensavi. Guarda, commento... massimo rispetto esatto per queste band, perché alla fine sai, io porto rispetto veramente per tutte le band indipendentemente dal genere musicale, perché quando una band si mette in gioco, è pronta a girare, a farsi ore di furgone e strada su strada per andare a portare in giro la propria musica, per quanto mi riguarda merita il massimo del rispetto indipendentemente dal genere musicale. Certo, i NoFX magari sono un attimino un sound magari diverso, magari più giovane rispetto alla mia adolescenza musicale, però li ho apprezzati tantissimo, okay. Li ho amati, perché comunque una band che comunque si riconosce in certi valori nei quali i Lost Fastidios si riconoscono da sempre, quindi certo, bellissimo. Certo. Sì, e poi qualche mese fa abbiamo avuto l'opportunità di suonare a Morro Valle al Punkin' Drabbic. Sì. Che è, diciamo, una piccola casa dei NoFX in Italia. Fantastico. Bellissimo. Riprendono questo nome, tipicamente giocano anche sul nome, riprendendo appunto il punto da NoFX. Ed è questo bellissimo locale a Morro Valle che lo consiglio a tutti, coloro che passano per le Marche, di andare a visitarlo, perché è veramente un piccolo museo dedicato al 75% ai NoFX. Okay. Wow. Il proprietario è un grande fan da sempre dei NoFX e ha dedicato questo localino proprio a loro. E riprendiamo la diretta, andiamo effettivamente a parlare con i ragazzi Enrico ed Elisa del loro 13° album. E la cosa che noto sempre e che mi ricordo sempre è che il migliore album dei Lost Fastidios è il prossimo. Questo me lo ricordo sempre, quindi questo lo vado sempre a dire, quindi non vi vado a chiedere qual è la cosa preferita, perché so che è posticipato a quello dopo. È quello che verrà, no? È quello che verrà. È incredibile, ve lo posso garantire che è incredibile, perché appena uscito il nuovo album e già stiamo lavorando su delle cose nuove. Anche ieri, concerto a Nitra, abbiamo proposto un sacco di pezzi nuovi, ma abbiamo proposto anche una cosa nuovissima, un pezzo surf spettacolare. Strumentale, un gioiello. No, strumentale a mezza via, perché era un po' introdotto da un... Tu lo stavi toccando. A foto stando, capito, proprio a livello di tosti. E lo dispo. Fantastico. Ma veramente, l'hai detta giusta, Danilo. Il miglior album dello Fastidios è sempre il prossimo. Però diciamo che quello che è appena uscito... È tanta roba. Ma veramente, più l'ascolto... E più, non perché è il nostro, certo, ma devo dire che è tanta roba. Ne siamo super orgogliosi. E parlando anche con gli amici e le amiche che abbiamo incontrato anche in questo ultimo ultimo weekend in tour, eravamo in Slovacchia e in Polonia. La risposta è stata veramente positiva. Unica, cioè tutti positiva. Uno spettacolo. Tutti l'hanno detto, secondo loro, ovviamente, tanto di rispetto per tutti i vecchi pezzi dello Sfastidio, ormai. Assolutamente. Perché noi non neghiamo niente di quello che abbiamo fatto, anzi, per noi sono sempre parte della nostra vita, ogni pezzo fa parte di noi. Però bellissimo vedere come ogni nuovo album la gente dice: caspita, bisogna fare qualcosa di più del solito. Ed è quello che cerchiamo di fare sempre. Certo, perché secondo me una band deve fare questo, perché i Lost Fastidios sono una delle poche band, pochissime band, che puoi trovare in giro per il pianeta, che non si adagiano su quello che hanno già fatto nel passato. È vero. Perché noi, se facciamo musica, è per suonarla, e la suoniamo anche. Ieri abbiamo fatto metà dell'album dal vivo, tagliando anche dei vecchi anthems di Lost Fastidios, che nessuno avrebbe mai pensato, magari anni fa, che avremmo potuto tagliare. Ma noi li tagliamo, perché i nuovi anthems, secondo noi, hanno qualcosina in più dei vecchi anthems, ma solo perché parlano di oggi, sono attuali, solo per questo. Esatto. Tutto rispetto per i vecchi anthems. Certo. Perché sono più attuali. È inutile che stiamo qua a raccontarci le cose che ci raccontavamo 30 anni fa. Noi ti raccontiamo, nel nuovo album, le cose che facciamo quest'anno. Noi siamo in giro 200 giorni all'anno in tour. E cosa dobbiamo raccontarti? Le cose che facciamo 30 anni fa in tour, ma perché? Ti racconto quello che ho fatto adesso. Questa è, diciamo, l'attitudine dello Sfastidios. Sempre in tour, ovunque nel mondo, raccontando le nostre nuove storie, le nostre nuove esperienze. Niente di più, niente di meno. Giustissimo, quindi io sostanzialmente mi collego un attimo alla domanda che vi avrei fatto. Dici, essendoci effettivamente la 91, più di 30 anni di carriera, trovare sempre qualcosa da poter dire nei testi non penso sia facile. Però giustamente tu mi hai appena detto: racconto quello che mi succede adesso, oltre all'attualità, quello che faccio in tour, le conoscenze, quello che viviamo. Esatto, esatto. Quindi questo è un modo per poter tenere rinnovato il testo. Esatto, proprio rinnovato, è secondo me la parola perfetta, mantenendo sempre il filo conduttore rinnovato. Ma perché il filo conduttore è sempre quello, cioè nel senso non è che cambi. Ed è proprio, raccontiamo la nostra storia. Siamo in giro, abbiamo veramente la fortuna di girare il mondo. Ma è quello che voglio, che invito anche tantissime volte, lo dico anche a tante altre band che magari sono un attimino... anche band nostrane che magari sono più radicate qua sul territorio nazionale. Aspetta, avete una potenzialità infinita. E perché lasciare solamente tutto quello che fate al territorio nazionale? Cercate di espandere la vostra musica, perché veramente oltre i confini c'è un sacco di gente che è pronta a recepire e a prendere la vostra musica. È quello che facciamo noi. Ed è anche pronta a darti qualcosa. A darti, ma infatti, ed è questo, io dico sempre che il sesto elemento della band è Lost Fastidios, forse l'elemento che dobbiamo ringraziare di più in assoluto, proprio il pubblico che ci segue in ogni angolo del mondo, certo. Un sacco di entusiasmo, un sacco di energia, che ci dona veramente quell'energia, quella positività che ci permette sempre di poter dare qualcosa in più. Ma perché recepiamo quell'energia mondiale? Noi siamo una delle poche band italiane che hanno questa fortuna. Poi non è che ci è arrivata dal cielo, ce la siamo costruita questa fortuna, sì. Girando ai tempi con il nostro vecchio sacco a pelo, mettendoci in gioco nel vero senso della parola. E secondo noi la vita di musicista è questa. Se tu fai musica, la tua musica la devi portare in giro. Non devo suonare nel bar sotto casa. Anche nel bar sotto casa. Anche. Esatto, per mantenere... Ma è quella l'abilità del musicista, dell'artista. Portare in giro la tua musica, riuscire a fare, provare delle emozioni anche dall'altra parte del mondo con le tue canzoni. E questa è la cosa che veramente a noi torna dal nostro pubblico. Questa è la forza. Quando tu dici, da dove ricevete quell'entusiasmo, quella carica, ma anche quella creatività per scrivere nuove canzoni? Da loro. Sesto elemento della band, il pubblico dei Lost Fastidios. Quel pubblico che ancora oggi ci permette di continuare a portare avanti quello che abbiamo iniziato 34 anni fa. Giusto, giusto. Bellissime parole, non posso solo che condividerle. Allora, si stava un attimo parlando su pezzi preferiti, bene o male. Adesso riassumo un attimo dicendo che, chiedendo spesso in giro, in diverse nazionalità, qual è il pezzo preferito, salta fuori sempre un pezzo diverso. Quindi non c'è un pezzo preferito che salta fuori. Come l'album. Però dicevi che stavate facendo una sorta di classifica. Vai pure, continua. Sondaggio, bravissima. E ogni persona ci risponde con un pezzo del nuovo album diverso. È fantastica questa cosa. Cioè, abbiamo veramente, cioè, tutti i pezzi sono stati nominati. Cioè, non c'è neanche un pezzo, se possiamo chiamarlo, lo scartino dell'album. Ci sono sempre i pezzi che magari lo fai come riempi l'album. Ma allora, ti dico un ulteriore aneddoto. Vai. In questo album abbiamo tagliato un paio di pezzi che sono una bomba, ma non perché tagliati, perché abbiamo detto facciamoli 13 pezzi, perché combattuti e saranno delle altre hit che usciranno poi più avanti. Okay. Ma riteniamo, cioè, e ti dico veramente, questa è la cosa bella dello Spastidios, che anche in questi giorni abbiamo chiesto, uscito l'album cos'è, una settimana di vita, cioè. sì un po' come noi, è uscito lunedì, e i numeri, ragazzi, sta facendo paura. Cioè, e penso che sia il record a livello di ascolti, a livello di condivisioni, a livello di pezzi già condivisi su un sacco di playlist, e tutti i pezzi diversi l'uno dall'altro. Cioè, fantastico. Questa è la cosa bella. Perché vuol dire che comunque riusciamo con la nostra musica ad arrivare dappertutto. Riusciamo, noi dico sempre che lo Spastidio sono, qualcuno dice, sei una band oil. Ti posso rispondere, cioè, nel senso che noi cerchiamo sempre di cercare di proporre quei generi musicali a noi molto cari, quei generi musicali che vogliamo prima di tutto tenere vivi, soprattutto per chi? Per le nuove generazioni, perché vogliamo che soprattutto i più giovani si rendano conto e capiscano chi siamo e da dove veniamo, da dove arriva la nostra musica. Noi diciamo sempre che non vogliamo fare nulla di nuovo. Di nuovo lo lasciamo ai più giovani. Sono bravissimi a fare delle cose nuove. Ascolto anche tante cose nuove. Perché io ascolto. Sei giovane, Enrico? Sì. Infatti ascolto tante cose giovani. Le ascolto. Rispetto anche le cose bisogne. Però ci tengo veramente tantissimo a spiegare ai più giovani. Ed è bello. E ieri sera Nitra, fantastico. Primo fila era giovanissimi, erano 17-16 anni. Ma gasatissimi, carichissimi. E ci hanno ringraziato. Che poi io quando trovo questi ragazzini, io mi perdo via. Divento un pochino. Anche in Germania, la prima fila era occupata da veramente giovanissimi. Sì, ma anche una cosa che ha scritto un promoter bellissima. Ha scritto una cosa. La riassumo. Vai. Che dice: i Los Fastidios magari ti possono anche stare sui coglioni, scusate il termine, mannata, ti possono anche stare sulle scarpe, perché sono un po' dappertutto, ma siamo dappertutto, ma non perché vogliamo essere dappertutto. Noi siamo una band indipendente, non c'è nessuno che ci promuove, siamo noi che promuoviamo noi stessi, ricordatevelo sempre, indipendenti al 100%. Però posso magari a qualcuno dare fastidio. Ci chiamiamo lo Spastidio. Però diciamo sempre che il promoter diceva: caspita, io organizzo questi concerti dello Spastidio, ormai sono anni che li organizzo. Non dico dove, è una grandissima città in Germania. E vi posso garantire che ogni concerto dello Spastidio che ho organizzato negli ultimi 10 anni, ogni anno è sempre più affollato, è sempre sold out in prevendita. Sempre sold out prima del solito. E la cosa bella è che ad ogni concerto nuovo dello Spastidio c'è un pubblico nuovo, un pubblico fatto di giovanissimi. E tante volte in altri concerti di tante band storiche mondiali non ritrovo. Questo diceva questo promoter, e diceva: caspita, è uno spettacolo. E questa è la cosa bella, secondo me. Perché io dico sempre che, come dicevo prima, non vogliamo fare nulla di nuovo. È quello che dico sempre ai giovani quando li incontro ai concerti. Cerchiamo solamente di raccontare a quei giovanissimi chi siamo e da dove veniamo, quali sono i generi musicali, le bands che ci hanno ispirato, quello che ci ha dato quell'input per creare questa cosa che si chiama Los Fastidios. E non siamo, permettere, noi siamo nulla di nuovo. Riproponiamo, ovviamente in chiave nostra, certo, il nostro stile, con le nostre modalità, riproponiamo quello che i maestri, chiamiamoli così, mi piace di più, i nostri maestri ci hanno insegnato. Niente di più, niente di meno. Okay. Solamente questo. Ok, io sono quasi addirittura d'arrivo della prima parte, volevo leggere qualche commento che avevo letto prima, che Mirek diceva: ma questo è anche il vostro lavoro duro, non possiamo dimenticare mai, grazie mille. Poi c'erano saluti dall'Indonesia anche. Grazie Mirek. Che si è collegato qualcuno, leggevo prima, saluto all'Indonesia. Dall'Indonesia mi hai nominato? Sì, Indonesia. Indonesia sta, nei prossimi giorni esce la versione di Love Steady in cassetta. In cassetta prodotta dalla First and Famous di Bandung, Indonesia. Ah, per figo. Tutto il mercato del sud-est asiatico. Seconda parte di Lestorm Rock, sono sempre qui collegato con Enrico De Lisa dei Los Fastidio, che stiamo un po' raccontando. Esattamente da Norimberga. Esatto, precisiamo, perché io penso che non solo la primissima volta vi ho beccato, che eravate a Verona e... Perché eravamo... Sì, secondo me, scusami, eravamo a Verona, ma davanti allo stadio. Era, no? Bravissima. Era il giorno prima del nostro matrimonio. È stato il giorno... Ah no, il giorno dopo andavamo in viaggio di nozze quella notte. No, eravamo appena tornati. Dalla festa a Berlino, perché abbiamo fatto il matrimonio il giovedì, siamo volati a Berlino il venerdì. Eravamo tornati la domenica per la partita. Il lunedì eravamo in partita nella quale si rimaneva fuori, però siamo tornati per la partita. Stati lì fuori con le scale a guardare. A fare l'intervista esatto. Lì fuori. Era Virtus Verona Cesena. Esatto. Io mi ricordo. Il 27 di settembre 2020. Ecco, questo è troppo dettagliato per me, però buono per voi. Lo garantisco, perché la festa a Berlino abbiamo fatto il 26 e il 27 eravamo davanti allo stadio Gavagnin a guardare stare fuori dallo stadio per Virtus per Cesena. Esatto. E quindi piccola pausa per quanto riguarda il discorso dell'album. Adesso in tutta la lista mi sembra che avete del vario tour che va praticamente fino a fine anno quasi. In Italia quando è che passate? Che non me lo ricordo sinceramente, così andiamo a dire anche dove sono andati in Italia. Allora, a maggio saremo a Fano, Pescara e Taranto. Sì, fantastico. Andiamo quindi centro Italia e sud Italia. A Fano all'Officina Amaranta, a Taranto al Mercato Nuovo, per esempio, sì. E a Pescara allo SCAM. Esatto. Fantastici concerti. Poi il 2 giugno saremo a Genova Music for Peace, che è una situazione che supportiamo tutti gli anni, due volte all'anno. Una realtà meravigliosa, che merita di essere supportata da tutti, perché è una realtà che è fatta da volontari, una realtà meravigliosa che nasce dalla forza della musica per portare la solidarietà, esatto, a tutti i paesi che soffrono le guerre in giro per il mondo. Okay. Quindi focalizzando in questo momento Sudan, infatti ci sono dei compagni che sono in questo momento in Sudan da qualche mese a portare beni di prima necessità, compagni di Genova, e ovviamente Gaza e Palestina. Okay. A giugno e loro organizzano a Genova ogni anno due eventi, uno a giugno e uno a dicembre. Eventi dei quali sono un sacco di bellissime bands, compresi anche noi piccoli Los Fastidios, e nelle quali si raccolgono beni di prima necessità e poi vengono stoccati direttamente nei container dentro il porto di Genova e poi vanno portati direttamente dai ragazzi dell'associazione alle famiglie bisognose, senza intermediazione alcuna. Quindi una realtà da sostenere. Music or peace. Che tra l'altro nel nuovo album, tu hai messo in pausa il nuovo album, ma invece lo ritiro fuori. Certo, perché certo. Abbiamo un pezzo che si chiama Music for Peace. Mi piace, è un pezzo contro le guerre, che da molto posso chiamare titolare come nome di questa associazione, che merita veramente il massimo del rispetto e il massimo esatto. del sostegno a parte di tutti. Se volete saperne di più, tutti voi che siete al collegamento in questo momento, scriveteci, vi diamo tutti i dettagli. È veramente che poi stanno cercando anche volontari. È una realtà meravigliosa, fatta di volontari, fatta dalla gente per la gente, senza intermediazione alcuna. Quindi eravamo arrivati qua 2 giugno. Sì, e poi saremo a Verona. A Verona. 11 ottobre, Cobfest. 11 ottobre. Ci siamo capiti. Il 20 dicembre, mi sembra sia il 20. Saremo a Milano. A Milano, con gli Shandon. Con gli Shandon, un nuovo credo che si chiama Age Hub. Una cosa del genere. Non ricordo. No, non c'è il video. Age Hub. Vabbè, oppure saremo a Milano. In italiano, non lo so. Certo. No, vabbè, però può anche essere che qualche nuovo dato italiano. Comunque Fano, Taranto e Pescara e Genova. Fano, Taranto, Pescara e Genova i prossimi, veramente. A maggio siamo. Quindi sì. Stiamo parlando di praticamente tutta città di mare. Quindi il mare. Ma poi c'è il mare, c'è questo che richiamo, questa voglia di partire, andare. Quindi è proprio molto lo spostiglio, no? Città di mare, città portuali, è proprio quelle città che piacciono a me. Ci sta. E io, prima di lanciare l'altro pezzo che avevo scelto, come avevo detto, 3 Minute Hero, l'ho scelto anche perché è uno che praticamente è incentrato, cantato principalmente tutto da Elisa, no? Se non sbaglio. Sì. Uno, sì. Infatti che poi... È una cover, è un tributo ad una grandissima band, Teutone Selecter, che appunto è una cover loro. E sai benissimo, Danilo, che noi siamo molto legati alla Teutone Music. Sì, sempre che abbiamo avuto anche la fortuna di suonare più volte nel Teutone Village, che è questo bellissimo museo a Coventry, dove tutto è nato, dove la Teutone Music è nata. E consiglio veramente tutti coloro che vanno in vacanza nel Regno Unito, segnatevi questa tappa, Coventry, to Tom Village, è uno spettacolo, vi riporta indietro di, cosa sono ormai, 40 anni? 79, The Specials, Selector, The Beat, Madness, Bad Manners. Più che na, più ne questa ne era la music. No. Quella musica che ci ha insegnato come la musica unisce e non divide, oltre ogni barriera razziale, religiosa, sessuale. Questa è la musica che piace a noi. Ed eccoci qua, sempre nella seconda parte del Storm Rock per quanto riguarda l'intervista con Enrico ed Elisa. Stavamo parlando della cover che hanno fatto comunque in questo album e mi collego un attimo a un discorso sempre di cover che avete fatto, che era un sorta di side project, che era solo di Elisa, dove cantava diverse canzoni dello Sfastidios. Quindi ti chiedo semplicemente, è un discorso che tornerà come EP oppure è stato solo quello che avete fatto? Allora, direi che è tutto iniziato da lì, l'entrata sul palco nello Sfastidios, con questo progetto che avevo di ricantare delle canzoni vecchie, lo Sfastidios, in chiave mia. E apro una parentesi, la chiudo subito. Elisa, conoscete bene, che è l'anima dello Sfastidios in questo momento. E era stato bellissimo perché Elisa è partita come tour manager nello Sfastidios, okay. Poi merchandiser e quant'altro. Ho iniziato videomaker, tutto. In realtà sono partita come fan. Quindi ho dato un passo indietro. Tutto. Quindi prima come fan, poi dopo stati i vari passaggi in avanti, ok. E poi a un certo punto la gente continuava a chiedere, ma quando è che vedremo Elisa sul palco? Te lo chiede uno, te lo chiedono due, tre, quattro, cinque, in ogni angolo del mondo. E dice, caspita. È arrivato il momento. No? E abbiamo provato. Proviamoci. È andata benissimo. E qui... poi è tutta la storia. Iniziato il progetto. E adesso è uscito il volume 3 nel 2023. Sì. O 2024. 23. Sì. E, ok. E adesso l'idea è quella di far uscire un album completo. Una raccolta, diciamo una raccolta. Una raccolta, con sì. Degli inediti, con degli inediti, sì. Ah, ok. Cioè, quindi, adesso, giusto per capirci anch'io, raccolta di quello che è stato fatto di Elisa che ricanti Los Fastidios e qualche altro brano nuovo solo di Elisa. Con Los Fastidios sempre. Ma vedremo, non è ancora fatto, okay. È un'idea. Poi vedremo okay. Quello che succede, perché lei è il futuro. Oddio mio. Urca. Guarda, sostanzialmente quando Enrico deciderà di andare in pensione per i Los Fastidios, i Los Fastidios continueranno ad andare avanti con Elisa. Quindi, guarda, che non è sbagliatissima come idea. Quindi magari Enrico si metterà a fare il merch e poi ci sarà solo Elisa a condurre. È quello che dico sempre, no? Perché i Los Fastidios hanno avuto questa capacità anche di rinnovarsi nella nostra storia. Sì. Che è importante comunque, perché abbiamo dato una veramente, io dico sempre, non perché voglio un gran bene di Elisa, ma perché veramente Elisa ha portato nei Los Fastidios veramente una ventata di positività, energia. Mi ha insegnato tantissimo. Mi ha insegnato come un sorriso possa veramente essere molto più forte di tanta aggressività che magari potevo avere magari che nel passato anche io personalmente. Certo. Tante volte veramente affrontare le cose in modo molto positivo ti permette di far arrivare il tuo messaggio di rivolta, il tuo messaggio di unione a più persone. Questa veramente per me è stata una novità. Devo dare merito ad Elisa di questa cosa. Non l'ho pagato per dire no, no. Precisiamo. E devo dire che la cosa bellissima è che il vero pubblico Los Fastidios ha capito perfettamente questa cosa e ha apprezzato questa cosa. Diciamo che è un rinnovarsi che è stata facendo, no? E chi siamo noi? Noi continuiamo ad andare in giro. Elisa l'ha trovata strada facendo e si è aggregata. Quindi mai dire mai voi che seguite Los Fastidios, perché magari un giorno o l'altro potreste essere anche voi dei Los Fastidios. Lo siete tutti, perché dico sempre che il sesto elemento della band è il pubblico che ci segue, magari in modo attivo a livello di strumenti quant'altro, perché no? Mai dire mai. Questa è la forza della musica. La musica ci permette di fare qualsiasi cosa. Lo dico sempre, ogni concerto. La musica ci permette anche di cambiare lo stato delle cose. Come una canzone, prendo una canzone a qualche anno fa, tristissima, una delle canzoni in cui ero molto legato, abbiamo riproposto in una chiave positiva, per proprio dimostrare che, caspita, la musica cambia. Ed è per questo che ho deciso di dedicare la mia vita alla musica, perché la musica non ti tradisce mai, a differenza della politica, della quale dovremo aprire un altro capitolo, ma ne parleremo in un'altra puntata, in un altro mondo. Preferisco parlare della musica. Va bene, giustissimo, ti do più che ragione, anche io sono un grandissimo fan della musica. Quasi agli sgoccioli di L'Estromo Rock, sono di Città Fujiko, sono qui in collegamento con Enrico ed Elisa, sempre dei Los Fastidios, per il loro, che abbiamo un po' ascoltato e parlato del loro tredicesimo album Love Steady. Io sono, come dicevo, sono arrivato effettivamente a fine e ho la domanda scaricabarile che probabilmente avevo già fatto anche la volta scorsa, ma ve la ripropongo perché ovviamente c'è un argomento leggermente nuovo rispetto alla volta scorsa, ed è, a conclusione, c'è qualcosa che non vi ho chiesto che vorreste dire? Il silenzio iniziale c'è sempre, quindi è normale. Allora ti dico cosa vogliamo dire. Vogliamo dire che vogliamo dedicare veramente questo Love Steady a tutte e a tutti. Io penso che in questo momento anche questo titolo non è stato scelto a caso. Penso che in questo momento vivendo quello che stiamo vivendo in questo maledetto mondo, sembra andare al contrario di quello che vogliamo, e abbiamo tutti bisogno veramente un pochino più di love. Questo non vuol dire diventare dei fricchettoni, assolutamente, con tutto rispetto, certo. Però ho proprio il desiderio di dire, ragazzi, dove stiamo andando? dove stiamo andando. Cerchiamo di ritornare un attimino con i piedi per terra, ricordarci chi siamo, da dove veniamo. Cerchiamo di restare uniti. C'è qualcuno al di sopra di noi che sta cercando di dividere tutto, di distruggerci, anche musicalmente parlando. Restiamo uniti, restiamo umani. Questo è quello che mi sento di dire in questo momento qui. Infatti il Love Steady è anche questo, è un messaggio, è la nostra voglia di dire veramente make music, not war. Ma non solamente la guerra fatta, diciamo, la guerra ufficiale, quelle bombe dalla quale siamo bersagliate ogni giorno, quando apriamo la radio il bollettino di guerra è terribile, bombe, morti ovunque, ma è anche quella guerra che purtroppo stiamo facendo anche all'interno del movimento, dei movimenti, una guerra manovrata secondo il nostro modesto piccolo parere da qualcuno che sta al di sopra e sta cercando di distruggere anche quanto di bello e forte ha sempre fatto e continua a fare la musica, perché la musica, che piaccia o no, è rivoluzione. Giusto, giusto. Restiamo uniti, restiamo umani, restiamo uniti. In questo momento veramente ne abbiamo tanto bisogno. Al di là di ogni conflitto, al di là di ogni bandiera, al di là di ogni discorso, ma dal basso restiamo uniti, perché noi siamo popolo, noi siamo gente e la musica è per il popolo e per la gente, non per il sistema, non per il potere. Loro hanno altre cose per loro. La musica è per noi e voi. Perfetto, io vi vado, non posso altro che confermare quello che hai appena detto. E come dicevo, vado effettivamente a chiudere la puntata ringraziandovi nuovamente per la disponibilità, sapendo che siete sempre in giro, avete trovato una domenica da passare qui un'oretta con me, quindi grazie della disponibilità e grazie di essere stati qui con me, e vi saluto. E non è stato facile, perché arrivavamo da Nitra, siamo fermati a Norimberga, organizzato, ecco, il 448. Esatto, era quello. E domani continuiamo la nostra strada direzione Inghilterra, dove suoneremo giovedì, saremo in Inghilterra. Ok, quindi ragazzi, io vi ringrazio e ci sentiamo alla prossima. Ciao ragazzi. Grazie mille a te Danilo, grazie. E grazie a tutti quanti. Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a te Danilo, veramente grazie di cuore per lo spazio concesso, soprattutto per aver concesso lo spazio alla musica indipendente e a una band indipendente, perché questa è la musica. Grazie Danilo. Di nulla. Let's talk more rock. Grazie ragazzi, e come di consueto, buon punk rock a tutti.